Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, saluto il nostro ospite Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, buongiorno ai radioascoltatori. E saluto anch'io ovviamente i nostri radioascoltatori, sono Francesco Galante e parliamo oggi di un tema che, insomma, ahimè, anche a me è caro, nel senso che è una cosa che ogni tanto faccio, di mangiarmi un buon pezzo di carne e qui certe volte, vero, la gola chiama e non si può rinunciare. Perché parliamo di carne? Perché, insomma, lo sappiamo tutti, c'è questa segnalazione che è stata lanciata dall'OMS per quanto riguarda le carni rosse, ma soprattutto credo le carni lavorate, vero Gianluca? Sì, chiaramente noi come associazione siamo stati molto attenti a questo grido d'allarme, e è pur vero che comunque questa situazione, questo pericolo non è da oggi che che viene fuori, insomma. Sì. Noi ci ricordiamo, insomma, voglio dire, abbiamo sicuramente fiori di medici di un certo livello, oncologi eccetera, che insomma il pericolo soprattutto per un abuso per quanto riguarda la carne rossa, insomma, è abbastanza conosciuto. Sì. Si sa che, insomma, la carne bianca è quella che è sempre stata consigliata negli ultimi anni rispetto a quella rossa. Sì, chiaramente anche qua bisognerebbe aprire delle parentesi, perché sappiamo un po' come certe carni bianche vengono trattate, però è chiaro che in questo caso l'allarme dell'OMS è riferito quasi esclusivamente alle proteine contenute nelle carni rosse, che appunto metterebbero a rischio gli organismi per quanto riguarda appunto la possibile produzione di patologie gravi come appunto tumori. Sì. Quindi diciamo, noi come associazione non vogliamo lanciare sicuramente allarmi, diciamo, non vogliamo far creare dell'allarmismo, però non vorremmo neanche che le persone prendessero alla leggera questo allarme. Noi abbiamo visto alcune reazioni che ci hanno lasciato un po' perplesso rispetto a questo allarme lanciato dall'OMS, cioè reazioni di categorie, per esempio come chi si occupa appunto della vendita di carne, che chiaramente non possono essere quelle che affrontano l'argomento senza interesse, cioè chiaramente sono interessate a difendere il prodotto. Noi diciamo solo una cosa ai consumatori: e l'alimentazione è molto importante, quindi non sottovalutiamo questi allarmi che sono stati lanciati dall'OMS, anche da fior di oncologi come può essere stato Veronesi o medici come Berrino, insomma, che ne parlano da tempo. Mm-hmm. di questo pericolo. Quindi ecco, attenzione all'alimentazione e attenzione anche ai consigli e all'informazione che ci viene fornita da chi ovviamente se ne intende, da chi è esperto in materia. Certo. Questa è l'unica cosa che vogliamo dire, perché noi non siamo medici, Francesco, però ci fidiamo dei medici. Mm-hmm. E ci fidiamo di chi se ne intende, insomma. Quindi un po' di attenzione all'alimentazione, anche perché voglio sottolineare che, guardandola in maniera molto cinica, la spesa per la sanità, la spesa per la salute fa la parte da leone, diciamo, anche nell'ambito della spesa regionale. Quindi, insomma, se anche tutti noi stessimo più attenti a livello di prevenzione, sicuramente anche questa spesa potrebbe diminuire, proprio per fare un discorso molto cinico in questo caso. Certo. In questo caso. È da segnalare che c'è differenza tra la carne rossa e invece poi i lavorati, no? Perché i lavorati hanno in più i conservanti e altre cose che vengono aggiunte alla carne, e questi insomma aumentano ulteriormente la possibilità di essere un po' più pericolosi. Sì, infatti, e anche qua, Francesco, onestamente, anche come tutti noi, una bella grigliata ce la mangiamo d'estate, eccetera, però oggettivamente sappiamo ormai da anni che insaccati, salsicce, appunto prodotti lavorati, possono creare dei problemi alla salute. Lo sappiamo, forse a volte ci nascondiamo proprio per il fatto del gusto, no? di un buon panino con un prosciutto cotto, con una mortadella, eccetera. Però voglio dire, con moderazione si può far tutto, ma dobbiamo sapere dobbiamo sapere quello che mangiamo, e secondo me la parte dell'informazione secondo noi è fondamentale, come è successo, Francesco, a suo tempo con le sigarette, sì, che a un certo punto a tutti è stato reso noto, insomma, che sono cancerogene. Non è stato vietato la possibilità di comprarle e di fumarle, però insomma è giusto che ognuno sappia quello che fa con la giusta informazione. Esatto, se riflettiamo un po' quando almeno io ero più giovane, si andava fuori a bere una birra, come succede adesso, si tornava a casa con i maglioni che erano intrisi e puzzavano di fumo, che era una cosa impressionante. Era una cosa incredibile, mi ricordo perfettamente anch'io. Adesso solo a pensare di andare a mangiare in un ristorante dove la gente fuma, ti fuma a fianco al chiuso ovviamente, sarebbe una cosa impensabile, però succedeva fino a 10-12 anni fa. È vero, è vero. E quindi insomma abituiamoci un po' ad ascoltare, ecco, anche le informazioni che arrivano da persone ovviamente che se ne intendono. E certo, quindi mangiamo con moderazione queste cose se ci piacciono e scegliamole adeguatamente anche quando andiamo a fare la spesa. Grazie anche all'Associazione Difesa Consumatori, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it che ci ha tenuto compagnia in questo ennesimo incontro. Grazie a Gianluca Codognato. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.